Ciao a tutti e bentornati alla quinta puntata di Radiobook, il programma del blog Gli Scrittori della Porta Accanto, in collaborazione con Radiobook. Abbiamo viaggiato oltreoceano, abbiamo parlato di misteri italiani e abbiamo gossipato. Oggi però vi propongo una puntata un po' diversa dal solito. Vorrei portarvi in Africa, con il romanzo La mia valigia gialla, della blogger e scrittrice Stefania Bergo. A lei non piace essere chiamata scrittrice, preferisce l'appellativo di viaggiatrice. Di fatto è il cuore pulsante del nostro blog, la sua fondatrice e la sua super informatica. Com'è finita in Africa? Facile. Poco prima di Natale, qualche anno fa, ha deciso che la sua vita aveva bisogno di un senso. Si sentiva smarrita, fragile, ma pronta per un'esperienza che potesse insegnarle qualcosa. Oggi non sarò io a parlare. Oggi sarà Stefania stessa a raccontarci com'è l'Africa e che cosa le ha trasmesso. Ciao Stefania, benvenuta. Sono orgogliosa di averti qui. Una domanda a bruciapelo. Quante volte sei stata in Africa? Ciao Giulia e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Allora, io sono stata in Africa 5 volte per brevi periodi dal 2004 e sempre nello stesso posto, a Matiri, in Kenya, che è il villaggio di cui parlo nel mio libro. E poi lì mi ci sono fermata 2 anni, dal 2008 al 2010, viaggiando anche tra Tanzania, Zanzibar e Sudan. Dopo la nascita di mia figlia Emma, che adesso ha 6 anni, sono tornata in Africa con lei altre 3 volte, seguendo il papà che lavora negli ospedali missionari in Uganda, Etiopia e Tanzania di nuovo. Ma non sono più tornata a Matiri, anche se spero di farla breve. Ti viene mai voglia di ritornare lì così, su due piedi? Sì, tantissimo. Tutte le volte che ci penso, oppure leggo su Facebook i post di chi adesso è là a Matiri, ovviamente mi viene voglia di partire subito. Oppure quando accompagno Alessandro all'aeroporto per le sue missioni, ovviamente mi assale una nostalgia incredibile e l'astinenza da viaggio si fa sentire. Partirei davvero così su due piedi, però sempre con Emma, non potrei più partire senza. Che cosa è cambiato tra un viaggio e l'altro? Ma guarda, sarà banale, ma sono cambiata prima di tutto io. Dalla prima volta, quella di cui racconto nel mio libro, sono cresciuta, ho ampliato non solo le mie conoscenze, ma anche le mie vedute, perché viaggiare apre davvero la mente. Ho acquisito più sicurezza, consapevolezza, insomma, in altre parole, maggiore esperienza, ovviamente. Per quanto riguarda Matiri, invece, nel tempo è cresciuto l'ospedale, quello di cui parlo, il Sant'Orsola, anche se ha conosciuto poi una battuta d'arresto dopo il 2010, quando sono venuta via io per la mancanza di fondi. Però adesso sta tornando ad essere grande grazie all'aiuto di vari donatori. Sono arrivati lì anche la corrente elettrica, l'asfalto, il progresso, insomma, quello inevitabile, quello che migliora le condizioni di vita e quindi è auspicabile. Il tuo romanzo in che modo rende giustizia alle tue esperienze? Racconta proprio tutto, tutto? Nel mio romanzo ho cercato di raccontare tutto quello che mi è accaduto nelle 3 settimane della mia prima volta in Africa. Volevo non solo far conoscere gli eventi, ma anche cercare di trasmettere le sensazioni. Sarà assurdo, ma volevo trasmettere i colori che ho visto, gli odori soprattutto, le mie emozioni, anche quelle più intime. Quindi sì, direi di sì, racconto tutto e mi dicono anche che sia riuscita a trasmettere le immagini, tra virgolette, e le percezioni, quindi ne sono davvero contenta. Come sono le persone che hai conosciuto? Nel corso degli anni a Matiri ho conosciuto tante persone, sia volontari che amici del posto, persone che ormai fanno parte in modo indelebile della mia vita, come ad esempio Alessandro, il papà della mia bimba. Non ho legato con tutti, ovviamente, ma con molti dei ragazzi che li ho conosciuti perché li ho sentiti affini. Del resto, a parte qualcuno che voleva solo mettersi in mostra dicendo di aver fatto terzomondismo, che è una parola che odio, le persone che ho conosciuto lì hanno tutti dei tratti comuni, ovviamente. Hanno menti aperte, cuori sensibili, intraprendenza, incoscienza, anche curiosità e tanta, tanta, tanta, tanta voglia di viaggiare, vedere il mondo e cercare anche di migliorarlo, perché no? Senza ambizioni o mania di grandezza, ovviamente. Semplicemente sentono il desiderio, forse la necessità di mettere ognuno il proprio granello, come ho fatto io. Anche gli amici che ho conosciuto, gli amatieri locali, non sono molti perché la maggior parte mi vedeva solo come il direttore dell'ospedale, però quei pochi che ho sono davvero insostituibili, leali, generosi, disinteressati, davvero amici e sinceramente mi mancano molto. Sogni mai l'Africa? Se la sogno, sempre, sempre la sogno. A volte basta anche solo un profumo. Ho una sensazione che mi ricordi il passato e mi lascia proprio trasportare dalla nostalgia. Qual è secondo te il pregiudizio più diffuso sull'Africa? I pregiudizi sull'Africa ce ne sono moltissimi in realtà. Per esempio, il fatto che gli africani sorridano sempre, anche nelle avversità. E loro sorridono molto, è vero. E sorridono anche se secondo i nostri canoni non avrebbero alcun motivo di farlo. Però pure loro si lasciano andare alla depressione. Mi ricordo di un bambino, per esempio, che aveva tentato di suicidarsi con del veleno solo perché la nonna lo aveva sgridato perché aveva perso tutte le capre, così per dire. Loro più che altro sono fatalisti, quindi diversamente da noi di alcune cose se ne fanno una ragione più in fretta, forse per questo sembra che sorridano sempre, però si tratta solo di sopravvivenza, secondo me. Un altro pregiudizio, per esempio, riguarda la loro lentezza. Molti dicono che gli africani siano lenti perché sono pigri. In realtà loro lavorano molto, soprattutto le donne, perché a volte gli uomini pensano solo a ubriacarsi. Lo fanno lentamente per via del caldo, tutto qui. Avete mai provato a correre sotto il sole dell'una a luglio? Meglio andare piano, Che cosa diresti alle persone che fanno del razzismo la loro bandiera? no? Beh, che è semplicemente anacronistico. Ormai dovremmo essere tutti cittadini del mondo e non c'è alcuna ragione per cui una persona possa ritenersi superiore a un'altra. Siamo semplicemente diversi, è innegabile, ma la diversità è una ricchezza, altrimenti sai che noia se fossimo tutti, tutti uguali. Io non sopporto comunque quelli che fanno non solo discriminazione per il colore della pelle o la nazionalità delle persone, che è abbastanza lampante, ma non sopporto nemmeno quelli che fanno discriminazione per i gusti sessuali e personali, per esempio, o distinguono tra maschi e femmine, oppure fanno delle graduatorie per il livello di istruzione. Cioè, dove sta scritto che se qualcuno ha avuto la fortuna di studiare sia migliore di un altro che non ha avuto la stessa possibilità? Magari è solo più istruito, non migliore. Ci sono altri luoghi del mondo che vorresti visitare? Oh sì, diciamo che vorrei visitare tutti i paesi caldi, mi piacerebbe fare un bel giro del mondo tra il Tropico del Cancro e quello del Capricorno, mentre per quanto riguarda i luoghi più a nord o più a sud li visiterei comunque in estate perché non amo il freddo, io vado sempre in cerca del caldo, evitando ovviamente per ovvie ragioni i paesi in guerra, che adesso che sono mamma sono diventata più prudente, quindi sono molto meno incosciente di prima. Diciamo che io vorrei vedere e conoscere tutto il mondo. Pensi che siamo realmente in una società globalizzata o che ci sono barriere invisibili molto forti? No, la società è tutt'altro che globalizzata. Le barriere ci sono, sia quelle visibili che quelle invisibili. E credo che siano ancora pochi quelli che le vogliono abbattere davvero, quelle barriere. E soprattutto credo che il mondo sarà davvero globalizzato solo quando tutti, dalla nascita, avranno gli stessi diritti e la stessa possibilità di scegliere chi essere nella vita. Che cosa speri che faccia la nuova generazione? Beh, banalmente, che renda migliore questo mondo. E che ci perdoni per non averlo fatto noi, quelli che li hanno messi al mondo. Ma ammetto di essere abbastanza terrorizzata dal futuro. Ci sono troppe atrocità e il pensiero di mia figlia da sola in questo mondo, così com'è, mi angoscia davvero tanto. Mi angosciano proprio i suoi coetanei e quelli appena più grandi di lei, perché queste nuove generazioni hanno perso di vita troppi valori. Hanno bisogno di una guida innegabile, sono una nave alla deriva senza il timoniere e forse le colpe sono solo nostre perché è chiaro che manchi qualcosa. Ecco, io mi auguro che la nuova generazione ritrovi il timoniere. E ora leggiamo un estratto del tuo libro. Ricordo bene il giorno in cui sono partita. Era il 22 dicembre 2004, un mercoledì. Ero in ritardo, ma anche il mio treno lo era. Il destino voleva proprio che io partissi. Salii al volo con la mia pesantissima valigia gialla, sbirciando appena tra la gente rimasta sul marciapiede della stazione. E incrociai gli occhi lucidi di mio papà che mi salutava. Il treno era pieno di gente, persone che tornavano a casa per Natale o che andavano da qualche parte, in posti dove c'era altra gente ad aspettarle. E sembravano tutti così felici, così eleganti. Io no. Mi ero sistemata nel corridoio, seduta sulla mia valigia gialla, appoggiata al finestrino. Guardavo fuori, sforzandomi di ricordare come fossi arrivata lì. Appena 20 giorni prima avevo trovato l'associazione Un ospedale per Taraka, Kenya, su internet. Mi era piaciuto il nome. Già, perché io avevo voluto andare in un ospedale. E proprio in Kenya. Non so perché, forse era solo il mio destino che si stava delineando, che mi stava portando nella giusta direzione senza che nemmeno me ne rendessi conto. Sapevo solo che volevo scappare dal Natale, dalla gioia degli altri. Ma andare semplicemente in vacanza era troppo facile, troppo scontato. E poi avrei trovato altre famiglie, altra gente felice, altre persone che si vogliono bene. Solo un mese all'anno, perché ci si sente obbligati da un'entità superiore o peggio ancora dall'abitudine, dalla pubblicità che confeziona sentimenti di plastica. Avevo telefonato ad almeno 10 associazioni, ma c'erano sempre 1.000 problemi. Non ero un medico. Avrei dovuto stare in Africa per non meno di 6 mesi, fare dei corsi di preparazione, pagare una quota di iscrizione. Ero demoralizzata. Perché doveva essere così difficile fare qualcosa di buono? Poi all'ultimo tentativo, dall'altra parte della cornetta trovai il sole. Antonia. L'entusiasmo della sua voce mi travolse subito. Sì, vieni pure, abbiamo bisogno di giovani che abbiano voglia di fare, mi disse al telefono. E poi c'era un'ala pediatrica da progettare, quindi avevo anche la possibilità di fare il mio lavoro. Perfetto! Nel giro di 2 giorni avevo il biglietto aereo tra le mani. Tutto così, distinto, come ho sempre vissuto la mia vita. Ecco com'ero arrivata fin lì, su quel treno. Mi sentivo sola. Ero quasi pentita di aver agito così impulsivamente. Avevo paura, non sapevo cosa avrei trovato là e non conoscevo nessuno. Avevo incontrato un'unica volta, per circa 10 minuti, il dottor Giorgio e la signora Antonia. Ma allo stesso tempo ero determinata ad andare fino in fondo, forse anche per mettermi alla prova, per dimostrare che ero in grado di cavarmela con le mie sole forze. Ho sempre detestato dipendere da qualcuno, soprattutto quando quel qualcuno non c'è mai al momento giusto. È vero, forse sono partita più per aiutare me stessa che per aiutare gli altri, ma come mi aveva detto un prete a cui avevo parlato della mia voglia di partire per l'Africa, non ci ha chiesto di fare qualcosa esclusivamente per gli altri, non ci ha chiesto di soffrire come dei santi per salvare le vite altrui. Siamo modesti esseri umani, e se parte di quel bene che facciamo ci torna indietro, non è una colpa e non toglie certo valore alla nostra scelta. Arrivai a Milano. Quanto pesava la mia valigia gialla! O forse era l'anima a pesare. All'aeroporto ancora gente indaffarata, felice, entusiasta, così lontana da me e dai miei pensieri. Feci le ultime telefonate prima di uscire dall'Italia, sperando forse che qualcuno mi chiedesse di non andarmene. Ma poi finalmente l'aereo decollò. Feci scalo a Londra un'intera notte. L'albergo era davvero lussuoso, assolutamente in contrasto con la mia destinazione finale. Una volta lì mi resi conto che ormai la mia avventura era iniziata, decisamente e irreversibilmente. Ma non avevo ancora lo spirito giusto e avevo solo marginalmente intuito quanto sarebbe stato importante e liberatorio per me questo viaggio. SMS del 22 dicembre 2004, ore 23:14. Sono solo all'inizio e già mi sento sola. Beh, forse perché sono in questa stanza d'albergo, extra lusso, a Londra e sto guardando un film in spagnolo. Magari domani, in una terra vera e calda come l'Africa, mi sentirò meno sola. Un abbraccio. Londra-Nairobi sono circa 8 ore. Durante il viaggio ho dormito a lungo, mangiato dell'accettabile pesce speziato, che ho ordinato solo perché non ho capito in che cosa consistesse l'alternativa, e poi ho sbirciato appena i film in programmazione. Arrivo che ormai è sera, una sera tiepida di fine dicembre. Evviva! Scendo dall'aereo annusando l'aria, tentando di carpire subito il profumo dell'Africa. Ho la giacca a vento invernale legata ai fianchi. Qui non mi servirà, mi dico felice. Faccio la fila per il visto, cercando di cogliere almeno qualche parola di italiano attorno a me. Scorgo tra la folla un paio di ragazze dirette in qualche missione, a giudicare da come sono vestite e dalla chitarra logora. Guardo l'impiegato che timbra la pagina del mio passaporto. Ecco, ora sono ufficialmente in Kenya. E ci sono arrivata da sola, penso con orgoglio. Mi sento persino più grande. Scendo le scale e aspetto di vedere apparire la mia valigia gialla sul nastro trasportatore. E nel frattempo allungo lo sguardo oltre la vetrata, dove un capannello di africani da cui spunta qualche viso pallido attende i viaggiatori. Ritiro il mio bagaglio e mi avvio verso l'uscita. Chissà chi sarà venuto a prendermi, mi chiedo. Magari proprio il dottor Giorgio. E se non lo riconosco? No, dai, non deve essere così difficile. Quanti bianchi ci sono là fuori a quest'ora? Due, forse. Magari ha mandato un autista con un cartello con scritto il mio nome e quello dell'ospedale. Passo in rassegna tutti i cartoncini tra le mani dei volti sorridenti in attesa, sperando di leggervi il mio nome, ma niente. Mi sistemo delusa in un angolo e mando un altro messaggio al cellulare di Giorgio. Ne ho già inviati due, ma non ho ancora avuto risposta. Chissà se li ha ricevuti, mi chiedo. Sono sola, realizzo, ed è sera. Sera a Nairobi. Ah, e sono una straniera. Una straniera che mette il naso fuori dal suo guscio per la prima volta, quindi del tutto impreparata, inesperta, imbranata. E nessuno è qui all'aeroporto ad aspettarmi. Nessun cartello con scritto il mio nome. La mia unica informazione in caso di emergenza è di andare al Flora Hostel e di aspettare che qualcuno venga a prendermi per portarmi finalmente a Matiri. Solo che a volte possono volerci anche giorni, come mi disse Giorgio quel pomeriggio quando lo conobbi alla stazione di Ferrara. Ok, niente panico. Compro una scheda telefonica locale e provo a chiamare Giorgio. Niente, non riesco a prendere la linea. Un uomo di colore dall'altra parte, l'unica non colorata infatti sono io, mi si avvicina e mi chiede se ho bisogno di un taxi, assicurandomi che il suo è un servizio ufficiale, quindi posso fidarmi. Probabilmente ha notato il mio disagio, il mio timore. Non mi ha nemmeno sfiorato l'idea che potessero esserci dei taxi non ufficiali. Quanto sono ingenua. Non ho comunque scelta, quindi mi fido. Gli nomino l'ospedale di Sant'Orsola, nel Taraka. Oh, Dr. Giorgio, yes, mi dice. Bene. Tiro un sospiro di sollievo. Forse ho trovato un amico. Ken, questo è il suo nome, trascina la mia pesante valigia gialla fino alla macchina e mi fa accomodare sui sedili posteriori. Mi siedo abbracciando il mio zainetto. Stringo il cellulare tra le mani in attesa di un messaggio e mi incollo al finestrino, cercando di vedere. Ma nel buio riesco a scorgere ben poco. E così non mi accorgo che proprio adiacente all'aeroporto c'è un parco nazionale, il Nairobi Park. Arriviamo in città e finalmente riesco a mettere a fuoco dove sono. Le luci illuminano la strada, i negozi. Dio, com'è diverso qui. I marciapiedi, beh, sono di terra battuta. Le enormi rotatorie con gente coricata a terra. E poi ci sono gli alberi carichi di fiori, gli agenti con i fucili e i supermercati notturni. Singolare che siano queste le prime cose che noto. Arriviamo all'ostello, che è chiuso per le vacanze di Natale. I guardiani al cancello non vogliono farmi entrare. Sfodero il mio inglese da scolaretta diligente e cerco di convincerli. Posso dormire anche all'aperto se necessario. Mi basta entrare nel cortile, avere almeno una barriera tra me e la notte di Nairobi. Mentre cerco di tradurre il concetto al guardiano, che mi sembra un po' più ragionevole, Ken mi rassicura. Non mi lascerà sola fino a quando non riuscirò ad entrare. E se ci volessero ore? Oh, grandioso come inizio. Niente panico. Ora chiamo la signora Antonia in Italia. Antonia, scusa, scusa l'ora tarda, ma sono a Nairobi e non riesco a contattare Giorgio, l'ostello è chiuso. Che faccio? Per almeno un'ora lei, Mauro e Ivana, i vicepresidenti dell'associazione, cercano di chiamare Giorgio e allo stesso tempo si tengono aggiornati sui miei progressi. Eh sì, toccherà anche riferire tutto quanto a mia madre, che sarà lì in Vestaglia a migliaia di chilometri da me e passeggerà in preda al panico per il salotto con il telefono in mano. Accidenti, si starà maledicendo per avermi lasciato partire. Ma diciamocelo, ha forse avuto scelta? L'unico risultato è che finalmente riescono poi ad avvisare Giorgio, che non si aspettava minimamente che fossi arrivata, o forse si è dimenticato chi sono, penso. Non ha ricevuto alcun messaggio lui, mi dice Antonia. Forse hai fatto un numero sbagliato, o magari là non prende, sai, a volte passano giorni prima che riusciamo a metterci in contatto con lui. O forse semplicemente nessuno mi aveva detto di mettere il prefisso, più 254. L'ho scoperto solo più tardi. Ok, è tutto risolto. Qualcuno verrà a prendermi domani mattina con la luce del giorno. Sì, perché ci vogliono circa 4 ore per arrivare da Nairobi a Matiri e nessuno viaggia di notte attraverso i villaggi sperduti in Africa. Beh, a meno che non sia un incosciente o qualcuno che abbia davvero un bisogno disperato di raggiungere qualche posto. La strada non è confortevole al buio, anzi, è anche un po' pericolosa. Possono esserci agguati, falsi incidenti o ammalati che ti costringono a fermarti. La mia situazione per il momento non cambia, eppure mi sento tranquilla. Dovrei farmi prendere dallo sconforto, magari diventare isterica e cominciare a piangere. Ma no, riesco persino a godermi l'aria tiepida della notte. E così comincio almeno a lamentarmi del trattamento riservatomi dai guardiani con il mio amico autista, almeno per fingere con me stessa di essere un po' preoccupata. Dopo qualche minuto la madre superiore del convento, che ho fatto chiamare su suggerimento di Ken, viene a vedere che cosa succede, seguita da un paio di ragazze. Le spiego chi sono, che cosa sono venuta a fare in Africa e lei allora mi accoglie. O meglio, mi accoglie in una delle camere destinate alle suore giovani. Anche Maria e Giuseppe hanno cercato un posto dove andare a dormire quando stava per nascere Gesù e nessuno li ha fatti entrare. Tu sei come Maria, ma senza Giuseppe e Gesù, dice in italiano una delle ragazze ridendo. Seguo la madre superiora fino al convento. Entriamo. Mi indica una porta sulla mia sinistra. È una stanzetta minuscola con un lettino appoggiato al muro. Un lavandino, un piccolo specchio, una sedia e basta. A stento riesco a far centrare la mia valigia gialla. Chiudo la porta e mi trovo seduta sul letto da sola. Mi lavo i denti e mi infilo ancora vestita sotto le coperte. E nel buio della stanza sento tutto il calore che stavo cercando, tutto il calore per cui ho viaggiato. Il calore della vita, quella pulita, semplice, essenziale. Anche oggi la nostra puntata termina, ma non mancate all'appuntamento il prossimo giovedì. Non vedo l'ora di raccontarvi tante altre cose. Il libro che abbiamo letto è Con la mia valigia gialla, di Stefania Bergo. Un'ultimissima cosa che vi dico circa questo libro è che è appena uscita la seconda edizione. La prima edizione era stata curata da un editore, la seconda è stata curata da Stefania stessa e tutto il ricavato, sia dell'ebook che dell'edizione cartacea, andrà in beneficenza. Quindi se deciderete di acquistare il libro, tutto quanto andrà all'ospedale di Matiri. Vi mandiamo un grande bacio e vi aspettiamo alla sesta puntata. Ciao!